2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 5 dicembre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Quella di oggi è una puntata speciale, una puntata in diretta, cade poco per 2024, ma soprattutto una puntata aperta anche agli ascoltatori. Allora ricordo già da questo momento il nostro numero verde che potete cominciare a contattare per proporci le vostre domande, ma anche le vostre considerazioni. Il numero verde di Radio 24 è 800 24 0024. Saluto Gianfranco Giardini, il nostro esperto di audio e video digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardini, oltre ad essere il nostro esperto da anni di tutta l'elettronica che in qualche modo ci contorna, soprattutto nelle nostre case, è anche direttore responsabile del magazine online dday.it e tu qualche giorno fa mi dicevi che tra gli articoli più visti, tra i servizi, gli approfondimenti, quelli che voi chiamate le guide più visitate, ce n'è una che è molto esplicita: meglio plasma o LCD? Finisce col punto interrogativo. Assolutamente sì, è la più letta in assoluto, è la più ricercata sui motori di ricerca. Evidentemente, anche dopo anni che se ne parla e che ne parliamo, evidentemente questo è ancora il quesito caldo nella testa di chi si avvicina all'acquisto di un TV. Oggi naturalmente non parleremo solo di TV, parleremo di quella che potremmo definire l'elettronica da salotto. Assolutamente, giusto? Sì, ma anche perché tutto si tiene, tutto si integra a questo punto, il TV è collegato a tutti gli altri apparecchi. Di plasma e di LCD abbiamo parlato altre volte, 2024, questo è un tema importante anche perché molti degli ascoltatori ci fanno domande su questo tema. Oggi forse ne parliamo in modo più approfondito perché per due motivi. Beh, si avvicina il Natale e sicuramente la TV è un regalo. A volte si potrebbe anche regalare una bella radio, ci sono dei belli apparecchi radiofonici, ma certo, insomma, la TV nel salotto è anche un oggetto d'arredamento. Quello che vorremmo cercare di fare è aiutare molti dei nostri ascoltatori per non prendere una fregatura, che poi uno magari porta a casa un prodotto che non soddisfa o comunque non concilia le proprie esigenze. Ricordiamo che la TV è una cosa che si cambia ogni 5-10 anni, insomma, mediamente ogni 10 anni, quindi quando parliamo del TV importante, quello del salotto, e quindi bisogna traguardare questo acquisto in un'ottica a lungo termine che preveda non soltanto l'utilizzo che ne facciamo oggi, ma in teoria riuscire anche a prevedere qualche cosa di quello che accadrà nei prossimi anni per avere un apparecchio sicuramente adeguato. Dopodiché bisogna anche stare molto attenti alle caratteristiche che vengono pubblicizzate, le caratteristiche che si potrebbero cercare ma di cui magari non si è neanche a conoscenza dell'esistenza. Bisogna un po' documentarsi prima di avvicinarsi a un acquisto di un TV, che non può essere fatto solo e soltanto su base emotiva. Non basta semplicemente andare in negozio come quando si va a comprare, non so, una maglietta, un golfino, ci piace, allora lo compriamo. Bisogna, purtroppo, ahimè, la tecnologia è un po' complicata, delle volte bisogna studiare, quantomeno documentarsi, o magari semplicemente ascoltare questa trasmissione e poi andare in negozio con qualche idea in più. Senti, noi oggi abbiamo esordito dicendo, facciamo riferimento a plasma e LCD, che sono le due tecnologie che guidano il mercato delle TV. Negli ultimi mesi abbiamo cominciato a sentire un'altra sigla, quindi vorrei capire dove piazzare questa sigla, cioè LED. Sì, infatti molte volte la domanda ricorrente si trasforma da: è meglio un plasma o un LCD, da: è meglio un LED o un LCD. Ecco, bisogna sgombrare immediatamente il campo degli equivoci. I TV LED sono TV a cristalli liquidi, sono TV LCD a tutti gli effetti. Semplicemente cambia la tecnologia con cui viene generata la luce, cioè la retroilluminazione del pannello. Ricordiamo che i pannelli a cristalli liquidi, quindi LCD, non hanno un'emissione di luce propria, ma hanno bisogno di una retroilluminazione. Cambiando questa retroilluminazione si hanno dei vantaggi. I vantaggi possono essere di qualità dell'immagine, possono essere di risparmio energetico, possono essere di diciamo sottigliezza del pannello, cioè si possono raggiungere degli spessori molto più contenuti se si utilizza un certo tipo di retroilluminazione LED. Però siamo sempre nel mondo degli LCD, ovvero i TV LED nella stragrande maggioranza dei casi hanno tutti i pregi e tutti i difetti dei TV a cristalli liquidi. Quindi poi parleremo anche di pregi e difetti. Quindi la cosa giusta da dire è: da una parte ci sono le TV al plasma, con una tecnologia che si chiama plasma, e dall'altra parte ci sono le TV LCD, alcune di queste sono retroilluminate a LED. Assolutamente sì, questa è la dizione corretta. Non tutte però. Assolutamente no, tutte le tecnologie diciamo più mature, i TV di più vecchia concezione sono retroilluminati con delle lampade che vengono chiamate CCFL, se qualcuno vedesse la sigla, ma potremmo dire che sono dei piccoli tubini neon, è una luce molto più tradizionale, e i LED li vediamo comparire anche nell'illuminazione pubblica, nell'illuminazione domestica e anche dentro i TV. È una fonte di luce nuova, che scalda meno, che consuma meno, che ha una stabilità maggiore della qualità della luce, e questo consente di fare alcune cose, alcuni ritrovati tecnici che permettono di avere per esempio un contrasto più interessante, permettono di fare TV, come dicevamo, più sottili, permettono di fare TV che consumano meno, e sappiamo che questa è un'esigenza comunque molto sentita. Senti, per quanto riguarda la tecnologia al plasma ci sono novità importanti negli ultimi, cioè nell'ultimo anno, diciamo così? Assolutamente no, è una tecnologia oramai matura che ha dimostrato di poter raggiungere ottimi livelli di qualità d'immagine, ci sono perfezionamenti sempre messe a punto, ma non c'è stata per adesso ancora una rivoluzione, anche se forse per gli anni prossimi si aspettano delle nuove generazioni di plasma capaci di fare un vero passo avanti, ancora avanti, e quindi vuol dire arrivare a qualità d'immagine veramente incredibili. Per il momento direi che il TV al plasma dà sicuramente garanzie di stabilità, è una tecnologia che oramai ha dimostrato di funzionare e funzionare anche nel tempo senza nessun problema. Oggi il nostro regista è Paolo Corleoni, che ringrazio, ma oltre a lui in regia c'è anche Giorgio De Luca, che fa assistenza al programma ed è già al telefono. Molti ascoltatori stanno già chiamandoci. Vi ricordo il nostro numero verde. Oggi potete contattarci e parlare in diretta con Gianfranco Giardina. Tra poco cominceremo a sentire i primi ascoltatori che hanno telefonato da Roma. A Roma c'è un elemento in più, perché Roma è una grande area metropolitana, diciamo la città più grande in Italia che è passata per prima al digitale terrestre. Ricordiamo che già la Sardegna, già parte del Piemonte, la Valle d'Aosta, parte del Trentino Alto Adige è già digitalizzata. Roma è stata l'ultima, anche la campagna proprio in questi giorni, questa settimana. Quindi questo è un elemento che in qualche modo spinge, prima dicevo c'è il Natale che sicuramente spinge le vendite, ma questo è un altro elemento che sta spingendo le vendite. Spinge / costringe, cambia la modalità di trasmissione, non tutti sono disponibili, soprattutto per il TV più importante del salotto, a mettere un ricevitore aggiuntivo, che vuol dire mettere un collegamento tra il ricevitore e il TV, vuol dire avere due telecomandi, uno col quale si accende l'apparecchio e si alza e abbassa il volume, e l'altro per cambiare i canali, quindi diventa ovviamente un pochino più scomodo. Chi ama la comodità o magari vuole avere il massimo della tecnologia non è disposto ad aggiungere un decoder magari collegato con una semplice cavo SCART, che sappiamo avere una qualità abbastanza deteriore, quindi vuole cambiare TV e passare a un TV che già integra al proprio interno la capacità di sintonizzare i canali digitali. Va detto che da diversi anni oramai i migliori TV integrano questa tecnologia, e da un anno oramai praticamente è obbligatorio vendere TV con il tuner digitale integrato, quindi tutti quelli che hanno comprato un TV negli ultimi mesi sono già a posto da questo punto di vista. Quindi quando vediamo sui volantoni che fanno pubblicità con decoder integrato, cioè quello Sava Sandì, cioè ci deve essere. Eh sì, certo. Come dire, vendiamo un'automobile col motore e quattro ruote. Assolutamente sì. Saluto Fabio che ci chiama da Roma. Buongiorno Fabio, grazie. Salve, buonasera. L'ascoltiamo. Salve. Innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione, veramente complimenti perché è molto chiara e molto esaustiva. E noi la ringraziamo. Il motivo di questa chiamata è questo. Io gentilmente vorrei sapere da voi, sotto queste feste di Natale, una persona diciamo normale che non abbia diciamo dei budget molto alti di spesa, come orientarsi appunto per fare un regalo diciamo senza svenarsi, come si suol dire, no? Parliamo di TV. Sì, TV, okay. Nel campo delle TV, che chiaramente insomma non è che costino pochissimo, diciamo, no? Eh sì. Ecco. Per cercare di capire un attimino come orientarsi, dico, nella fase di acquisto in un eventuale negozio o centro commerciale, visto che non tutti penso che, insomma, sicuramente in questi periodi di crisi possono permettersi di questo tipo, insomma, ecco. Certo, lei tocca un tasto importante, quello del prezzo, cioè lei dice evitare che io vada, compri una cosa da 499 o 599 euro e magari prendo una fregatura, giusto? Anche perché, voglio dire, come lei sa meglio di me, è difficile, diciamo, districarsi in questa giungla di negozi, centri commerciali, ognuno fa il suo prezzo, chiaramente. E avere un orientamento preciso non è poi così semplice per un utente, diciamo, sprovveduto, che non abbia, diciamo, abbastanza conoscenza delle marche o delle specifiche tecniche influiscono, diciamo, sull'acquisto, diciamo, no? Esatto, grazie Fabio. Bisognerebbe, diciamo, andare in negozio con Gianfranco Giardino, però non è possibile. Adesso sentiamo anche Francesco, che si chiama sempre da Roma, poi cerchiamo di rispondere. Francesco, buongiorno. Sei pronto? Buongiorno. Un augurio agli esperti, praticamente. Senta, vorrei sapere io come mai non si vede più, almeno il famoso, è uscito, mi pare, 2 anni fa, Philips Aurea. Aveva dei LED in contorno al mobile, allo schermo. E poi al volo un'altra cosa. A Roma non tutti i quartieri prendono... sono collegati col primo, secondo, terzo, quarto canale. Non ho capito come mai. Quindi dice il digitale terrestre non si riceve su tutti i canali. Sì, signore. In alcuni quartieri non si prende. Anche in provincia, perché io sto in provincia. Sì, pure. Sì, questo è un problema che ci è stato segnalato. Grazie Francesco, buona giornata e buon ascolto. Allora Gianfranco, quello dei prezzi è un problema serio, cioè ci sono, soprattutto pubblicizzati dai grandi centri commerciali, dalle grandi superfici commerciali, prezzi strabilianti. Dobbiamo credere a questi prezzi? Come possiamo orientarci? È difficile, perché comprare un TV non è come comprare un chilo di pane, che diciamo oscilla tra 2,50 euro e 3,50 euro, ma insomma in un range abbastanza stretto. Purtroppo un TV anche del medesimo polliciaggio c'è, cioè, a 500 euro e a 2000 euro, quindi è difficile capire perché questa differenza di prezzo addirittura di 4 volte, 5 volte, e se dietro c'è veramente una qualità oppure no. Va detto che, come sempre in tecnologia, se si acquista un prodotto cosiddetto in phase out, quindi che sta uscendo dalla gamma, che magari è dell'anno scorso, ma che magari va benissimo assolutamente, si possono ottenere degli sconti, dei saldi molto importanti. Per cui, come sempre, in un mercato che cambia le proprie gamme circa una volta ogni 6 mesi, o addirittura, cioè, nei casi in cui un TV dura tanto, dura un anno, ecco, non dura di più, sicuramente sullo scaffale dura un anno. Non in gamma. Non in casa. No, non in casa, certo. Sì, assolutamente. Quindi assolutamente si possono trovare dei prezzi molto, molto bassi. Come orientarsi è la domanda a cui cerchiamo di dare una risposta in tutta la trasmissione. La risposta semplice e banale, io inviterei il nostro ascoltatore Fabio a magari andare sul sito di day.it, dove abbiamo messo una guida molto semplice per capire quali sono i parametri da vedere e quelli magari da trascurare. Ne cito i più importanti: ovviamente la dimensione dello schermo deve essere adeguata alla distanza di visione, quindi non troppo piccolo, perché non è che il TV dà fastidio se lo schermo è troppo grande, dà fastidio se è troppo piccolo, perché io devo leggere sullo schermo, devo vedere i volti, devo vedere le espressioni. Se è troppo piccolo rispetto alla mia distanza di visione, affatico la vista. Quindi la regola è di non andare mai oltre uno schermo che sia largo un quinto della distanza di visione. Tanto per intenderci, se sono a 5 metri di distanza dovrò avere un 46 pollici come minimo, che è largo circa un metro. Quindi questo è l'ordine di grandezza, anche se la distanza ottima di visione è ancora più ravvicinata, circa 2x3 per la larghezza dello schermo. Altre cose da vedere: la disponibilità di ingressi HDMI, che sono gli ingressi digitali ormai utilizzati da tutti gli apparecchi di oggi e da quelli sicuramente che verranno. 2 prese non sono più sufficienti, perché basta che arrivi il ricevitore di Sky HD, una PlayStation 3 e l'abbiamo già chiuse tutte, quindi dopo il TV diventa chiuso, bisogna cominciare a attaccare e staccare a mano, inaccettabile. Inaccettabili 2024. Vi ricordo che 2024 è disponibile anche in podcast, è un modo utile per riascoltare questa trasmissione. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it. Questa è una puntata speciale in diretta con le vostre telefonate. Tra poco sentiremo altri ascoltatori. Volevo, sempre per rispondere a Fabio, che ha toccato un punto importante, cioè quando vado in negozio, per non prendere una fregatura spendendo poco, che cosa devo guardare? Direi, Gianfranco, di ricordare anche le esigenze, cioè farsi una domanda: che cosa ci devo fare? Cioè, tu dici spesso, se io devo guardare i classici canali della TV, praticamente tutte le TV vanno bene. Se devo vedere invece Blu-ray in alta definizione, magari ho un abbonamento a un pacchetto in alta definizione, ecco lì invece devo fare più attenzione. Fare più attenzione anche alla versatilità del TV e dei suoi collegamenti. Ci sono degli aspetti che però vanno guardati sempre in ogni caso e che di solito non guarda mai nessuno. Quando andiamo a comprare un TV dobbiamo vedere tutto il TV che compriamo, non soltanto la carrozzeria esterna. Cosa significa voler vedere per esempio il menu del TV, che è fondamentale, perché ci troveremo a navigare in questo menu e che se è brutto oppure incomprensibile diventa assolutamente scomodo, ma soprattutto alla velocità del cambio canali. Noi dobbiamo chiedere al negoziante di metterci in condizioni, quindi darci il telecomando in mano, quindi vedere il telecomando, perché è l'unica cosa che toccheremo del TV in tutta la sua vita fondamentalmente, e provare a cambiare canali, perché ci sono TV che cambiano canale molto velocemente, TV che hanno processori molto più lenti e ogni cambio canale dura un secondo e mezzo. E dopodiché ci si accorge che semplicemente fare l'attività di zapping diventa un incubo insostenibile. Sì. Dunque, per rispondere invece a Francesco, che diceva gli Aurea della Philips non si trovano più in commercio. Gli Aurea della Philips sono stati una proposta sicuramente innovativa, che ha colpito molto, questa cornice luminosa che cambiava colore a seconda dell'immagine. Tutti dicevano molto bello da vedere, e poi a confronto col prezzo, che era comunque un prezzo molto alto, molto importante, l'acquisto magari non arrivava. Di qui è nato un successo commerciale solo parziale, diciamo forse inferiore alle aspettative di Philips, per cui quel tipo di prodotto, che evidentemente ha dei costi intrinseci di produzione alti, se no il prezzo sarebbe anche sceso automaticamente, è andato un po' a mettersi da parte. Non è detto che venga comunque in qualche modo ripescato. In realtà Philips poi deve competere con tutti gli altri brand che hanno in questi mesi, in questi anni, ridotto drasticamente i loro prezzi e quindi si è adeguata in qualche modo su dei prodotti più semplici. Francesco ci proponeva anche delle domande sul digitale terrestre. Nella seconda parte entreremo più nello specifico del digitale terrestre. Sentiamo Claudio che ci telefona da Modena. Buongiorno, benvenuto Claudio. Buongiorno, io volevo raccontarvi la mia esperienza ormai fatta più di 3 anni fa e secondo me molto positiva di sistema di intrattenimento in salotto. Io ho deciso di buttare via tutti quelli che erano i... Tra l'altro questo si aggancia anche con alcune cose che diceva il nostro esperto. Ho deciso di buttare via tutti i dispositivi che avevo, a partire dal videoregistratore, digitale terrestre e quant'altro, perché non sopportavo più l'idea di avere 5-6 telecomandi, non siamo più a 2, ma per un sistema di salotto completo molti di più. Ho buttato via tutto e ho messo al centro del salotto un computer, quindi in particolare un Mini. Non abbiamo sentito. Mac Mini, Apple. Mac, okay. Ovviamente non mi sentivo di mettere, di dare un sistema di questo tipo in mano a un sistema operativo come Windows, che ogni tanto sappiamo che ha qualche problema. E poi ho collegato tutte le periferiche a questo dispositivo. Mac Mini, tra l'altro, è un dispositivo molto piccolo ed è l'unico che ho lasciato a vista. Quindi un sistema di uscita audio con degli amplificatori in classe T, quindi audiofila, il televisore senza casse, cioè le casse le ho attaccate ovviamente al sistema di amplificazione delle casse Bose, e poi ingressi di digitale terrestre. Ho messo questo sistema e non tornerei mai più indietro. Ho un solo telecomando, una tastiera e un mouse, sono aperto a tutti i sistemi di intrattenimento del futuro e anche del presente, da iTunes sì, chiarissimo. Anche a Hulu, diciamo che se si vuole volando in America. Diciamo, Claudio, che se si vuole abbonare a Sky, però qualche cosa lo deve aggiungere. Insomma. Il problema non è mio, è Sky. Ah, vabbè, certo, però se vuoi... Il problema è Sky, che non consente di avere nel 2010 un dispositivo che si possa collegare a un computer. Questo, certo, per me nasce solo dal fatto che siamo un paese strano che consente che un gestore di televisione satellitare non rispetti le leggi, ma si faccia una legge per conto suo, con un decoder per conto suo, che tra l'altro, se ricordiamo bene, qualche anno fa uscì una legge che diceva come dovevano essere le trasmissioni digitali in Italia, lui se ne frega. Sì, sì, di questo abbiamo parlato. Un suo dispositivo proprietario, sì, sì, sì, sì, secondo sì, me. Abbiamo, fuori legge, ma, abbiamo approfondito il discorso in una recente puntata di 2024, in effetti ci sono altri decoder del tipo. L'esperienza è molto interessante, direi però, Gianfranco, che purtroppo è per un pubblico limitato, nel senso che l'utente normale, ma io stesso non ho molta voglia di mettere un computer, di smanettare un po', cioè voglio una TV che possa accogliere il più possibile contenuti da fonti le più diverse. Però è vero quello che diceva Claudio, cioè abbiamo una esplosione oltre che di decoder, di telecomandi. Allora, Claudio è uno di quelli che viene catalogato dagli esperti di marketing come early adopters, cioè diciamo un po' di precursore di una strada che sicuramente verrà e deve essere seguita. Non si può impazzire, morire di decoder, ecco, perché è quello che sta succedendo all'utente italiano. Perché se dovesse seguire il digitale terrestre HD, Sky, il MySky HD e poi magari pure TVSAT, magari Mediaset Premium On Demand, si troverebbe con 6-7 decoder, non avrebbe neanche gli ingressi sul TV. Ovviamente sono servizi che sono in parte sostitutivi l'uno dell'altro, quindi non è che uno deve averli tutti, però anche soltanto scegliere è un dramma. La scommessa del prossimo, di questo decennio, diciamo, fino al 2020, è quella dell'integrazione dei servizi. E quindi per questo ci vuole un TV anche che sia, come dire, versatile. Non è più pensabile che per ogni servizio si aggiunga una nuova scatola. Per ogni servizio al massimo aggiungo un driver, al massimo aggiungo un pezzo di software, deve essere tutto aggiornabile. Questo è la scommessa, anche perché sul fronte tecnologico della riproduzione televisiva siamo un po' un binario morto, nel senso che una volta il 32 pollici era il TV più grande che c'era nel mondo dei tubi catodici praticamente. Adesso siamo a 52, 60, 65, cioè la dimensione dello schermo non è più un problema, la risoluzione non è più un problema, la qualità d'immagine nella stragrande maggioranza dei casi è un problema soltanto per i TV peggiori, ma i buoni TV ormai hanno una qualità d'immagine buona o molto ottima. Quindi il punto cos'è adesso? Il punto è semplificare l'esperienza di utilizzo e di visione, anche perché sennò i nuovi apparecchi non si possono vendere. Questa è la seconda parte di 2024 in questa puntata speciale dedicata, beh, potremmo dire, all'elettronica del salotto in vista anche del Natale, ma pensando anche a chi deve pensare a rifare qualche cosa all'interno del proprio impianto perché è arrivato il digitale terrestre. Io sono Enrico Pagliarini e con noi Gianfranco Giardina, che è direttore del magazine online dday.it, che sta per Digital Day, www.dday.it, visto che alcuni ascoltatori ce l'hanno domandato. Ci sono delle guide che vi possono suggerire qualche cosa per acquistare una nuova TV. Abbiamo esordito oggi dicendo che avremmo parlato di plasma e di LCD. Io, Gianfranco, però te la rifaccio la domanda, vorrei sentire il tuo parere, anche se potremmo dedicare 8 trasmissioni a questo tema. Allora, meglio il plasma o meglio l'LCD? Parto da un dato, vorrei capire, sul mercato, su 100 TV vendute, quante sono plasma e quante sono LCD? Circa 90 sono LCD e circa 10 sono plasma. Questo però non vuol dire che... No, non vuol dire, anche perché il plasma parte soltanto praticamente dai 42 pollici in su, c'è qualche plasma 37, ma praticamente diciamo che non esiste più, e quindi soltanto i grandi schermi possono essere plasma. Gli LCD invece ci sono di tutti i tagli possibili, e quindi è chiaro che chi compra un TV piccolo, un 32 pollici, sicuramente compra un LCD. Siccome il taglio più venduto per il TV del salotto ancora oggi, secondo me sbagliando perché è troppo piccolo, ma è un 32 pollici, ecco che tutti questi TV sicuramente saranno LCD, quindi numericamente la proporzione sta in questi termini. Va anche detto che il plasma ha subito negli ultimi 4-5 anni una campagna, direi, denigratoria, assolutamente incredibile, dicendo che addirittura si scaricavano, che si macchiavano, che si guastavano, che non duravano. Sono tutte bufale. Sì, praticamente sì, e soprattutto che la qualità d'immagine degli LCD fosse meglio. Se c'è un tallone d'Achille degli LCD che consumano un po' meno, che sono più sottili, generalmente molto meno pesanti, ma il tallone d'Achille degli LCD è che la qualità d'immagine non è mai stata ottima come quella dei migliori plasma. Ecco, quello forse è il tallone d'Achille. Ecco, questo non è passato al mercato, e fondamentalmente perché, va detto, la stragrande maggioranza dei produttori è impegnata solo sul fronte dell'LCD, quindi non ha un'offerta di plasma. È chiaro che se io sono un produttore e non ho un'offerta di plasma ma soltanto di LCD, tenderò a dire che le LCD sono i TV migliori in assoluto. I consigli, direi, li accetto soltanto da quei produttori che hanno in gamma sia plasma che LCD, e come tali, diciamo, possono essere al di sopra di ogni sospetto di conflitto di interesse da questo punto di vista. Sentiamo Claudio che ci telefona da Milano. Buongiorno Claudio. Sì, buonasera Pagliarini, sono Claudio da Burago, provincia di Milano. Io volevo tornare sull'argomento del digitale terrestre. Diciamo che adesso con l'introduzione del digitale su scala nazionale mi aspetto un incremento, un proliferare delle emittenti televisive. Gli impianti d'antenna attualmente installati di carattere domestico avranno necessità di variazioni, di adeguamenti, o è previsto che riescono a supportare l'incremento di canali televisivi? Domanda chiara, diciamo problema con il quale hanno a che fare buona parte degli italiani che sono già passati al digitale terrestre, così rispondiamo anche a Francesco che ci chiamava da Roma. Gianfranco. Proviamo a dare una risposta chiara e concisa. Le frequenze utilizzate sono le medesime, quindi l'antenna è attrezzata, l'antenna è proprio il pezzo di ferro, è attrezzata per ricevere quel tipo di frequenze e le riceverà. I canali aumentano perché su una frequenza, nel mondo analogico ci sta un canale solo, nel mondo digitale ci stanno 4, 5, 6, 7 canali, quindi si moltiplicano per questo motivo e quindi non c'è bisogno di un impianto diverso. Certo è che bisogna che quelle frequenze che sono utilizzate dai canali digitali siano gestite dall'impianto antenna che abbiamo. Ci sono alcuni impianti, soprattutto quelli condominiali, che non portano negli appartamenti tutta la banda di frequenze, ma per non avere disturbi sul cavo, soltanto quelle frequenze dove ci sono i canali che erano giudicati nel mondo analogico più importanti. Col mondo digitale può essere che su quelle frequenze ci siano sicuramente alcuni canali digitali, ma ce ne siano altri canali digitali su frequenze che prima non erano gestite, non erano ritenute interessanti perché c'era una piccola emittente che magari il condominio aveva deciso che non era utile vedere. In tal caso bisogna fare una piccola modifica all'impianto, cioè far sì che tutte le frequenze dove ci sono i canali digitali vengano trasferite fino all'appartamento. Quindi piccoli interventi, non si tratta mai di interventi rilevanti. In alcuni casi è chiaro che se io, non so, Rai 1 la vedevo, la potevo ricevere nella mia zona, e qui rispondiamo anche a Francesco di Roma che ci aveva chiesto prima, potevo vederla nella mia zona da tre impianti diversi, ma la ricezione migliore era sull'impianto 1, tanto per intenderci puntavo l'antenna verso l'impianto 1, ma magari oggi il bouquet di Rai digitale mi arriva dall'impianto 2, la mia antenna non è puntata verso quell'impianto perché fino a ieri non mi serviva, ecco, devo andare a puntare l'antenna verso quell'impianto. Quindi si tratta di adeguare alla nuova mappa delle frequenze, ma l'impianto, il cablaggio, nel 99% dei casi resta lo stesso. Chi, soprattutto nelle zone che sono già passate al digitale terrestre, quindi abbiamo elencate prima, dopo qualche giorno dal passaggio ha fatto la risintonizzazione di tutti i canali e continua a non vedere qualche canale, deve chiamare l'antennista. Assolutamente sì, la prima cosa che deve fare è verificare, soprattutto se non è in una zona densamente abitata che potrebbe essere coperta solo parzialmente dal servizio digitale, è interrogare tutti i vicini di casa e chiedere se questo problema, se questo problema riguarda solo lui o riguarda tutti e riguarda anche chi ha impianti differenti. Se riguarda tutta la zona, l'antennista potrà fare poco. Se invece riguarda a macchia di leopardo alcuni utenti, altri no, probabilmente c'è da fare quel piccolo intervento sull'impianto di cui parlavamo, e quindi l'antennista è la soluzione. Dunque, sentiamo brevemente Marcello da Latina, che mi pare voglia intervenire sempre sul digitale terrestre. Sì, buonasera. Prego. Pronto? Prego. Buonasera. Senta, mi riallaccio all'ultimo discorso che stavate facendo. Da quando c'è stato il passaggio qui nella provincia di Latina, per esempio, nonostante la mia risintonizzazione, perdo i canali. O perlomeno ne perdo una parte di canali, e non, io ripetendo, anche se ripeto continuamente la risintonizzazione, perdo sempre questi canali. volevo sapere se c'era qualcosa che magari poteva riguardare il mio TV, oppure poteva essere un problema di trasmissione, insomma, del segnale. Un'altra domanda, io ho fatto un abbonamento con una pay per view e ho dei grossi problemi con la cam, quindi non so, ma a me mi hanno detto che è il problema della cam della Samsung che ho inserito, che è difettosa, ma non so, mi sembra strana questa cosa, è un accordo commerciale con un colosso come la Samsung. Il nostro numero verde è 824-0024, oggi, come avete sentito, è una puntata speciale di 2024 che ripeteremo anche nei prossimi sabati del mese di dicembre. Saluto Cinzia, che abbiamo fatto aspettare da un po'. Buongiorno Cinzia. Ah, buongiorno. Ecco, io ho una domanda forse un po' più legata al design. Cioè, io vorrei un televisore con la cornice bianca. Innanzitutto c'era quello della Philips, che adesso non c'è più, ma non riesco a capire la differenza tra, per esempio, la fanno sia i Sony che l'Hove. Volevo sapere, siccome dicono, non so se posso dirlo, che il Sony si paga soltanto il marchio e non ne vale la pena, invece il Hove dovrebbe essere ottimo, ma è vero, dato che c'è una differenza di prezzo così notevole? Certo, lei è un po' preoccupata anche perché di cornici bianche ne fanno ben poche, tutte scure. Sì, e le fanno, se no ci sarebbe il Samsung, che però sinceramente, nonostante quello che abbiamo detto altri ascoltatori, mi non dà le piace. L'idea di un po' un televisore un po' baraccone quando si tratta di vecchi modelli. Forse sono io che non me ne intendo a sufficienza, forse non dovevo dire. No, no, ma lei ha detto tutto quello che doveva dire ed siamo liberi di dire quello che vogliamo, non è che... Grazie Cinzia, buona giornata. Effettivamente, quando ci si mette anche il design, le cose si complicano, perché sul design allora, c'è poco da dire. La cornice bianca è sicuramente una cosa che caratterizza molto il TV, che lo fa vedere molto. E però piace a un certo pubblico, piace molto, è un TV diverso, finalmente un po' meno nero, ecco, diciamo così. Allora, quando parliamo di marche, poi dipende anche il rivenditore, spesso e volentieri, ahimè, ha interesse a spingere un prodotto piuttosto che un altro, e quindi i consigli validi e attendibili sono purtroppo rari. Non mi fiderei di questa descrizione, che mi sembra veramente un pochino esagerata. Sony ha fatto in passato, fa e probabilmente farà dei TV assolutamente eccellenti, come anche l'Hove. Il problema è che l'Hove si indirizza a un mercato più di nicchia, quindi un numero di prodotti, sicuramente una quota di mercato, quel numero di prodotti venduti sicuramente più contenuta di quelli di Sony, materiali se vogliamo più sofisticati, sicuramente industriali ma più ricercati, un prodotto di gamma generalmente più alta, un pubblico differente. Sony è un prodotto più industriale seppur di alta gamma. Non condivido l'opinione che l'ascoltatrice ha dei TV Samsung, che comunque ha dimostrato, non fosse altro con le quote di mercato incredibili e prodotti che sta vendendo, di convincere il pubblico sulla qualità dei propri prodotti. I prodotti sono comunque molto buoni, se la giocano più o meno alla pari. Quindi a questo punto basarsi solo sul design. Il design, se uno cerca il design lo deve vedere. Il prezzo non è indice necessariamente di qualità, non vuol dire che un prezzo basso o un prezzo più basso corrisponda a una qualità più scadente. Se non si hanno gli strumenti o l'interesse di guardare cosa c'è oltre il design, quindi le tecnologie, la qualità d'immagine, io dico che un occhio normale, anche non allenato, guarda due TV che si vedono in maniera diversa e capisce quello che si vede meglio. Ecco, questo, guardare anche dentro la cornice e non solo sulla cornice, potrebbe essere un passo avanti per sapere la risposta certa al quesito se cosa è meglio scegliere. Guardiamo dentro i TV. Quello che capisco io, facendo anche questa trasmissione insomma, da parecchi anni, è che nonostante i produttori dicano che le cose sono più semplici, che tutti cercano di semplificare questo mercato, in realtà le cose stanno diventando sempre più complicate, e quindi è bene oltre che ascoltare queste trasmissioni, ma noi ben poco possiamo fare per cercare di far capire alla gente che cosa comprare, se un prodotto piuttosto che un altro, insomma è importante soffermarsi e leggere, fare i confronti, anche se sempre non è facile. Dunque, non ci siamo dimenticati del nostro ascoltatore che ci faceva una domanda su problemi al decoder. In quel caso forse Gianfranco, anche lì, fare una domanda al vicino, se il vicino non ha quel problema. E probabilmente il problema sta nell'apparecchio o nel software dell'apparecchio, quindi se si perde nelle sintonizzazioni, cosa che non può accadere, che non deve accadere, sicuramente o l'apparecchio è guasto o diciamo qualitativamente scadente, chiamerei l'assistenza in questo caso. Andrea da Verona ci chiede via SMS se serve un ricevitore digitale terrestre per ogni TV che abbiamo in casa. La risposta è sì. La risposta è sì se il TV non è già attrezzato con la sintonia digitale, ovviamente. Jacopo da Firenze dice una domanda sul digitale, ma tutti i canali locali, regionali e provinciali che fine faranno? Non faranno nessuna cattiva fine, cioè verranno riposizionati sempre su frequenze digitali. Sentiamo Domenico da Bergamo, buongiorno Domenico. Buongiorno, mi sentite? Sì. Buongiorno e buonasera a lei, complimenti per la trasmissione e buonasera a tutti i radioascoltatori. Senta, il programma è bellissimo, devo dire che avete toccato tutti i punti, dalla qualità al design. Però vorrei che apriste una piccola parentesi sulla garanzia e mi spiego il perché. A me è successo di comprare per un regalo a un nipote un iPod. Questo iPod aveva dei problemi e tornando dal rivenditore mi sono sentito dire ancora era fatto in tempo perché la garanzia di questo costruttore in Europa è solo un anno. È vero su queste cose? È vero o la garanzia, se ben ricordo, è 2 anni? Domanda chiara, immagino una risposta altrettanto chiara, perché Gianfranco Giardino sulle garanzie mi sembra si sia espresso più volte e si sia documentato. Perché è uno dei problemi del nostro mercato. Allora, la garanzia offerta dal costruttore è una garanzia cosiddetta convenzionale o di marketing, cioè è l'azienda che sceglie di offrire una garanzia. Può essere un giorno, un anno o 20 anni, non c'è nessun vincolo di legge, nessun obbligo. Il produttore ovviamente, se non offre garanzia, non si propone in maniera credibile all'acquirente che non comprerà il prodotto. È prevista invece una garanzia di legge per il consumatore, per tutti i consumatori finali, quindi sottolineo coloro che non comprano con fattura e partita IVA, perché chi compra con fattura e partita IVA ha la garanzia di legge di 1 anno, invece chi compra come utente finale, consumatore, senza partita IVA, senza fattura, ha una garanzia di legge di 2 anni che deve essere riconosciuta dal rivenditore, quindi è il rivenditore che risponde di questa garanzia, non il produttore. Nel primo anno, chiaramente, nel caso specifico, converrà all'acquirente col prodotto guasto andare presso un centro d'assistenza, perché risparmia un passaggio. Tanto il rivenditore non è che riparerà lui il prodotto, lo manderà poi lui a sua volta un centro d'assistenza. Nel periodo che intercorre tra la scadenza della garanzia convenzionale e la garanzia di legge che comunque c'è, il consumatore può rivolgersi solo al rivenditore, che deve riconoscere la garanzia. La giustificazione data dal negoziante è una giustificazione furba e non deve essere recepita. E questo vale anche per le TV, visto che assolutamente sì. O di decoder, eccetera. Anche se oramai direi quasi tutti i produttori prevedono una garanzia convenzionale 2 anni su TV. Quindi che si allinea con quella, di legge del rivenditore. Fabrizio dalla provincia di Vicenza. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere un dettaglio tecnico. Quelli che sono in possesso di videoregistratori, come si trovano con il digitale terrestre? Ci sono problemi? È una cosa applicabile senza ulteriori decoder o cose del genere? Bravo Fabrizio, questa è un'ottima domanda, mi piace anche perché conosco molti affezionati alla videoregistrazione. Gianfranco, aggiungo anche un'altra domanda di un ascoltatore che ci ha mandato un SMS. Perché i TV sono senza registratori? È una bella domanda, cioè TV oggi hanno, anche perché esiste un obbligo di legge, integrato il decoder per il digitale terrestre, hanno la cam per mettere dentro le schede per vedere i canali condizionati, cioè quelli a pagamento, ma non hanno il videoregistratore. Ecco, qui dobbiamo aprire una piccola parentesi. Abbiamo 3 minuti però. Sulla videoregistrazione nel mondo digitale. La cattiva notizia, cari telespettatori e consumatori, è che nel mondo della TV digitale ci vieteranno, mi ci metto dentro anch'io, di registrare se non col permesso dei loro signori. Io sono molto apolemico e arrabbiato. Per me la registrazione è semplicemente un motivo di comodità per vedere una trasmissione che va in onda nel momento in cui non sono a casa, e quindi non sto rubando niente a nessuno, voglio semplicemente vedere una trasmissione in un secondo momento. Invece qui si sta creando una situazione per cui nel mondo digitale è l'emittente che decide se quella trasmissione può essere registrata o meno, e addirittura su che apparecchi. Basta vedere Sky, le trasmissioni di Sky possono essere registrate solo se si ha un ricevitore MySky, cioè sull'hard disk. Ovviamente la trasmissione non può essere portata fuori dal videoregistratore, non può essere conservata, non può essere masterizzata su un DVD per vederla fra 5 anni, sta sull'hard disk e poi la cancello. Nel mondo digitale non esistono, diciamo, i TV con il videoregistratore integrato, semplicemente perché funzionerebbero una volta su 5. Basta che l'emittente decide che quel programma non è registrabile, accende un bit in trasmissione e quel bit indica a tutti gli apparecchi videoregistratori di rifiutarsi di registrare, e quindi questa è la cosa che poi accade. Che cosa succede ai videoregistratori VHS nel mondo digitale terrestre? Ecco, praticamente non sono più in grado di registrare autonomamente canali televisivi perché non sono in grado di sintonizzarli. Di questo non ne ha parlato nessuno, ho sentito decine, centinaia di servizi ITG su tutte le TV nazionali, che tra l'altro devo anche capire perché dopo lo switch off nelle aree continuano a dire che a Roma e dintorni non si potrà vedere questa trasmissione, ma quelli o hanno il digitale o già non la vedono più, quindi non capisco perché fanno questo annuncio. Lo vediamo in Lombardia che a Roma non si può più vedere l'analogico, ma questa informazione un po' pazza. Nessuno ha detto che i videoregistratori non funzionano più. Bisognerebbe prendere un decoder solo per il videoregistratore, quindi non lo stesso che si ha per il TV, solo per il videoregistratore, collegarlo con la scatola al videoregistratore e programmare l'ora di registrazione sul videoregistratore, ma il canale di registrazione sul decoder. Una cosa che, insomma, più cervellotica di così. Oppure bisogna collegare il videoregistratore all'uscita della TV, ma siamo obbligati a guardare quello che stiamo registrando. Non solo, se voglio registrare qualcosa quando sono fuori casa devo lasciare il TV acceso, inaccettabile. Dunque, vorrei sentire per 3 secondi Andrea da Lucca, visto che l'abbiamo in onda, anche se non abbiamo tempo per rispondere. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, sarò velocissimo. Complimenti, Enrico, per la trasmissione. Io volevo farvi una domanda. Ho visto che molti televisori full HD prospettano il decoder integrato al HD, mentre altri solamente il decoder integrato non HD. È una specifica che fanno. Io mi chiedo, dal momento che la piattaforma Rai ancora non trasmette in full HD, quali consigli potete dare sulla scelta, se prenderlo già adesso, magari un decoder integrato full HD, anche se poi magari non sarà utilizzabile, perché per adesso le trasmissioni in full HD che uno può vedere penso siano quelle o in DVD Blu-ray o magari piattaforma Sky dedicate in full HD. Andrea, la domanda è chiara, ti ringrazio per avercela posta, magari la pubblichiamo, cioè la pubblicherai tu, Gianfranco, su dday.it. Assolutamente sì, c'è una risposta, non è così semplice. Non c'è più tempo. Noi ringraziamo Paolo Corleone in regia, Giorgio De Luca per l'assistenza al programma. Questa puntata sarà disponibile anche sul podcast di Radio 24, grazie a Gianfranco Giardina, che tornerà con noi il 19 dicembre. Da Enrico Pagliarini l'augurio di un buon ascolto su Radio 24. 2024.